storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, buonasera. Buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci Antonio, stasera sarà una bella serata. Elettrizzante direi. Eh sì, diciamo proprio di sì. Vabbè, comincia tu dai. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è come sempre www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, critiche naturalmente anche, è il 346, basta che siano costruttive. Naturalmente, 346 23 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un cordiale saluto al nostro regista Eddie Daici. Questa sera abbiamo in studio, abbiamo il piacere di riavere in studio una figura storica del teatro veneto e non solo. E non solo del teatro, dal Veneto al mondo, Paolo Trevisi, figura straordinaria. Buonasera Paolo. Buonasera Paolo. E abbiamo anche una leggiadra presenza femminile che consento naturalmente a te di presentare. Abbiamo con noi la signora Lia, che è la direttrice del Club Verduren, sì, si dice così Lia? Verduren, ecco, sì. Di San Pietro di Feletto. Sì. Esattamente. Ecco. Ma bisogna dire la Lia De Martin. Ah, la Lia De Martin. No, no, sì, non adesso, mia, la Lia, perché sia donna di servizio, invece oh, no. È una figura molto, molto, molto importante. Altro che. Figura di spicco della cultura. Che. Allora, caro Paolo Trevisi, prima cominciamo con una canzone. E ecco. Poi il microfono sarà tutto suo. No, no, ve lo assumi. No. Dimmi cura d'rio. Allora, la prima canzone in programma è cantata da Peppino Gagliardi ed è una canzone che a me piace tanto. Che vuole questa musica stasera? Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla, vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. You say riporta un poco del passato, che mi riporta un poco del tuo amore, che mi riporta un poco di te. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola e tutto il microfono al signor Paolo Trevisi. Perché? Cosa vuoi da dire? Ah beh, ma è lunga tanto da dire. Aneddoti, no, bisogna che parta. Aneddoti. Allora, niente, volevo così un'informazione, una più che altro una sensazione mia. L'attore deve avere la gestualità, deve avere l'attore, diciamo... E chi recita invece e canta allo stesso tempo come i personaggi del teatro d'opera, che qualità ulteriore devono avere, se necessitano di qualità ulteriori? Cantare un'opera poi dipende da che personaggio devi interpretare, se è amoroso, se è tragico, quello che è logico che è più difficile che recitare, perché recitare impari la parte e i tempi li stabilisci tu fai le pause dove li tieni opportuno. Perfetto. Ti manca il fiato, te fermi, no? Esattamente. Mentre il cantante d'opera deve seguire il direttore d'orchestra, la partitura musicale. Di conseguenza deve interpretare, cantare, e la preoccupazione è sempre presente perché la voce ti può improvvisamente tradire. Quindi sai la famosa stecca, no? Esatto, sai che quando Beniamino Gigli Beniamino era a dire Canati ed era nato nel 1890. L'ha conosciuto di persona? No. Una volta soltanto mi ero tosetto, mi ha dato una fotografia qua dedica. A me piaceva tantissimo. Vabbè, Beniamino ancora o porto sempre con me, perché il mio telefono quando che suona è la voce di Beniamino che canta l'improvviso dell'Andrea Chenier, e ora so che è il mio telefono. Tante dicevo che Beniamino Gigli, quando ha studiato canto eccetera, poi è finito che ha debuttato in Gioconda come Enzo Grimaldo al Teatro Sociale di Rovigo. E quando è arrivato alla romanza del secondo atto Cielo e Mar, che finisce con un si bemolle acuto, e ha piantato una dei stecche che si è ancora inciodata e a pararia. E tutti si poteva pensare che finisse. Invece è stata forse la stecca che l'ha aiutato, perché si dice che quando si debutta per la prima volta, si canta un'opera, è vero, se ti succede qualche cosa, porta buon. Perfetto. E che porta buon, perché dopo siamo nel 14, dunque 14, dopo 7 anni nel 21 muore Enrico Caruso, sì. E Beniamino va in America e poi prende il posto, prende dopo ritorna in Italia. L'abbrivio, comunque è molto difficile cantare e fare, però una volta i cantanti lirici si preoccupavano molto del canto e basta, soprattutto non della gestualità e compagnia, e quindi si preoccupava più che altro del ruolo del canto. E poi con l'avvento di altri artisti come all'inizio degli anni 40 Mario Del Monaco eccetera, anche perché poi gli diceva almeno vado all'opera perché non capisco neanche una parola. Ma è vero, perché si cantava sulle vocali, la nostra lingua, diceva anche Gigli stesso, è la più adatta per essere cantata, perché è tutta basata sulle vocali. Quindi le vocali è quello che tu non puoi cantare le M e le N, ma Del Monaco ha cominciato a pronunciare le M e le N, quindi in maniera molto marcata, scandita bene, sì. E quindi questa dizione da parte di questi artisti ha cominciato a dare una svolta. Ecco che allora dopo appaiono le Callas, le Tebaldi, i vari cantanti, e noi riusciamo a capirli tutti, anche i soprani di coloratura. Capisci? Che non è semplicissimo. Non è semplice. Esatto. Certo che deve essere una cosa abbastanza difficile cantare, gesticolare, sì, fare attuare il personaggio. Certo. Infatti Del Monaco, quando è stato famoso con il suo Otello oppure i Pagliacci eccetera, era perché interpretava molto e ci dava molto, perché sapete, interpretare in palcoscenico col pubblico e agire va anche molto a scapito di fiato e di voce, e quindi bisogna coniugare una buona riserva molto, di voce, molto difficile questo, bisogna legare, quindi armonizzare tutto. legare tutto assieme. Ma insomma poi dopo sono andati avanti eccetera. Chiaramente poi sono dei talenti straordinari evidentemente che hanno. Appunto, dopo è arrivato anche Pavarotti. Ma Luciano, io ho lavorato, ho fatto alcune opere con Luciano, ho fatto la Lucia, ho fatto prima la Bohème, 75, poi la Lucia, e poi l'ho avuto che il suo primo trovatore, l'abbiamo fatto insieme. Luciano era un cantante, era una gran bella voce, ma più di tanto non si muoveva. Quindi, e per la stazza e forse per la mancanza di io mi ricordo la Bohème, in arena del 75 mi pare che fosse, io mi ricordo che dovevo solo portargli tante bottiglie di acqua gelata con gas, ma che ne avrà bevuto meno so 15 durante la Bohème. Gli avranno fatto anche male? no, lui beveva, stava bene, stava meglio degli altri. Ma come mai? Sudava? Forse aveva... Beh, sudava il cappotto con te che lo cavavi pesava quattro volte di più, sì, perché interpretare d'estate, però quando apriva la bocca era di un fascino la sua vocalità, che sì, effettivamente... grande. E ricordo un aneddoto di Luciano. L'ultima opera che abbiamo fatto insieme è stata La Gioconda, e alla premiere di Gioconda una piova in arena che Dio la mandava. Mamma mia, che triste. E lì andavi già pronto vestito per fare Enzo, e mi dice: che peccato, guarda questo pubblico meraviglioso, l'arena strapiena sì. Questo pubblico meraviglioso sotto la pioggia che non si muove perché sperano, no, di guardare le notizie che io ho dalle Torricelle, perché ero in collegamento, è proprio che pioverà tutta la... Ah, che peccato, non so come fare, poveretti. Senti Luciano, ho un'idea, prendo un bel ombrellone e me lo faccio prestare qua dal bar da Galieno, qua in fianco alla porta degli artisti dell'arena. Dico: tiriamo fuori un pianoforte, mettiamo il microfono, va bene, e col pianoforte, il maestro sotto un'ombrella, ti sotto l'ombrello mi te ne tengo una, va bene. E allora lui ha detto: ah, benissimo, che se le foto è... E lui ha cantato Cielo e Mar sotto una piova del pubblico impazzito, e dopo ho detto: signori, potete andare alle biglietterie per il rimborso del vostro biglietto. Ecco. Un altro caso, deve essere un'avventura ma bisogna avere sempre il muso rotto, certo. Mia, perdersi guarda, che quando io ricordo, io ho fatto 10 stagioni in arena, quando è venuto la prima volta Maurice Béjart con il suo balletto ballerina. In Italia per la prima volta venivano dal teatro La Monnaie di Bruxelles e facevano la nona sinfonia di Beethoven. Il coro dell'arena era sui gradoni, poi c'era l'orchestra nella fossa dell'orchestra e naturalmente il palcoscenico era per i ballerini che facevano questa, e aveva inventato una specie di creazione del mondo Béjart, bellissima, una cosa stupenda. E alla prima di questo balletto strapiena all'arena, perché Boris Béjart c'ha un nome di spicco, che cominciava una piova, mica dico da saiatina, leggera, non drammatica, acquerugiola, così. Proprio nessuno si è scomposto, i tedeschi che tira fuori il suo preservativo che è trasparente e quelle robe che si mette così e ombrette quelli che si versi, si stai fermi tutti quanti, ma appena è iniziata la nona sinfonia che comincia a gocciolare, a questo punto l'orchestra scappa subito perché i legni non è una mancanza di rispetto verso il pubblico. È perché i legni sono talmente vecchi, i violini, i contrabbassi, i celli, che le gocce di pioggia li rovinano, quindi scappa via. Tutti rimangono interdetti, io, e qui è un colpo di follia, sono corso dentro l'arcovolo dove c'era tutto montato il Revox, il registratore col nastro, che provavano di giorno la nona sinfonia, e premo il bottone, faccio partire l'amplificatore eccetera, e si sentono le note, che per fortuna era a zero, quindi parte la nona sinfonia, i ballerini si mettono in e danzano tutta la nona, un'ora e cinque circa, un'ora e dieci, io che sei, tutta con il nastro che va. Un successo. Il sovrintendente Cappelli viene da me e fa: chi è stato? Io: ah, tanto abbiamo salvato 114 milioni di incasso, commendatore, se a lei dispiace. No, ma adesso qui i sindacati non si preoccupi, nessuno parlerà. Guardi, il coro è rimasto lassù con il suo saio sulla testa, benissimo, e ascoltano e guardano. Dico: l'orchestra è tutta qui negli arcovoli che guardano dai buchi, il balletto, anche loro, e vedrà che nessuno parla. Successione: l'unica cosa che è andata storta, sai cos'è stata? Che nel giornale L'Arena, il giorno dopo, il critico, che era un caro amico poi, Bologna, ha fatto la critica criticando l'orchestra e il direttore. Sì, allora l'ho chiamato. Senti Carlo, ho letto il tuo articolo, è bello vero perché dico la verità, no, te che ha sbagliato tutto, come? Sì, ho detto, perché era von Karajan con Berlino e Filarmonica. Ha detto, non mi dire che avete fatto col nastro, sì, ma ti noto che ieri, ecco il perché. Sono aneddoti, ma sono verità. Eccezionale. Ma amico Coraio, questo è fondamentale. Si sente, si sente. Una volta a causa della pioggia ho detto a Cappelli, senti, dico, mi comincio, la Ida era, erano le 10 e 10. Di musica pure la Ida non scherza, sono 5 quadri, ma sì, parecchia musica, 3 ore e mezza abbondanti. Se ho carta bianca dico riusciamo a fare la recita, basta che... Siccome so che dopo non piove più dalle 10 e 5, 10 e 10, previsto. Hai detto, e cosa ha fatto? Ah, non si preoccupi, me l'angio me. Non ho fatto cambi di scena e il coro mi sono messo in buca dell'orchestra e dicevo, fermi là, che adesso viene avanti una scala qua. Ecco, andai fuori a par de là. Tutto dalla buca, abbiamo fatto tutta la Ida con intervalli di qualche minuto tra atto e atto. Abbiamo finito all'1:32, neanche in straordinario, se mo dai. Ma che vuoi coraggio? Certo. Va bene, allora ci fermiamo un momentino. Ah, secondo che vuoi. E ci ascoltiamo la seconda canzone, ecco, che è Gloria, cantata da Tozzi. Anche tu nel sole. Ed eccoci di nuovo in studio per continuare con questa affascinante avventura dal Veneto al mondo. Però prima volevo chiedere così una, è più che altro una conferma di un qualcosa che avevo ascoltato che mi è sembrato irrispettoso. In Emilia si dice imbecil come un tenor, che è qualcosa per esempio dato forse dal diaframma, dalla questione, non so se mi cosa, cosa vuol dire? A uno sai che dice che è una testa da tenor. Ecco. Questo vuol dire tutto. Io ricordo una volta facevo la regia dell'Adriana Le Couvreur a Las Palmas. E avevo come principessa di Bouillon, avevo la Elena Obrazova, una russa, no? La quale mi ha raccontato questo aneddoto, questa barzelletta, diciamo, no, di un tenore, e dice, sai, i tenori hanno una testa, dice, perché anche quello che avevamo, insomma, noi eravamo un genio. Non era il massimo. E allora dice, sai, perché una volta, dice, è nato un bambino, e come ha aperto, gli ha dato le dopache nel dadrio, e ha fatto wah wah, e che ha cominciato a dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i genitori spaventati, lo porta dal pediatra, il pediatra l'ho visto, fa, ma il bambino è sano, sì, ma attento dottore, Gigi, 1, 2, 3, 4, 5, anche il pediatra, non è possibile, un bambino di pochi giorni, due giorni, ma non è possibile, insomma questa è una cosa da neurochirurgo, e allora il neurochirurgo, da guardare il cervello, come che il cervello, che ha aperto la testa, a sto puteo, e gli dico, ciao, se va, che ne avevamo via mezzo, e che anche via mezzo serveva, che sarà la scatto, e il puteo che avverti oggi, 1, 2, e quel che rallentava però, e ora cava, un altro tocco, sta con un quarto del cervello, il bambino, 1, 2, e ha detto a Elena, a un certo punto il crudo, sentite, beh, dottor faccia lei, perché noi altri un bambino che non si cava anche l'ultimo tocco del cervello, e tutti hanno detto, una furtiva lacrima, hai capito? Elena Obrazova canaglia contro i tenori, no? Invece io ho conosciuto tenori molto intelligenti. Perfetto, invece adesso veniamo al prequel, nel senso a come è iniziata la carriera operistica di Paolo Trevisi, perché è una cosa affascinante. Ma io andavo a studiare a Pacinotti di Mestre e mio padre faceva il camionista. Durante la guerra portava il carbone su per le montagne del Cadore e nel periodo di pace portava camion de ghiaia per bonificare il terreno dove si sta costruito l'aeroporto di Tessera. E allora montavo in camion con mio padre e mi scaricava alle porte di Mestre, dopo a piedi andavo ai Pacinotti, no? E quindi in camion mio padre era Bombasea, piccoletto, pareva un po' Tagliavini come figura, no? Una vocetta di scherzo, mi cantava una furtiva lacrima, mi cantava la Marta, ma queste cose mi erano sempre affascinate. Però fin da bambino, fin da ragazzino, 12-13 anni, mi ero avvicinato all'opera lirica e ascoltavo sempre per radio. Tanto che una volta che hanno comperato a casa il giradischi con la puntina, parliamo, avevo 12 anni, se da sta il 53 così, e avevo preso l'improvviso dell'Andrea Sinieri con Gigli. Mia madre, siccome vedeva che avevo interesse, ogni mattina per ciappare la filovia alle 6:30 mi svegliava mettendo il disco di Beniamino Gigli. Quindi è stato un grande amore. La prosa ho iniziato, come dicevo l'altra volta, a 5 anni. Sì. Però questo amore il per grande l'opera. Grande amore è stato per l'opera. Quando poi io sono stato uno dei primi che viventi senz'altro che si ricordano del concorso di Treviso, perché il concorso di Treviso non è partito improvvisamente, è partito con un esperimento nel 69 e poi nel 70 diventa il concorso internazionale. Nel 69 è stato fatto questo concorso per il barbiere di Siviglia. La regia l'ha fatta Beppo Maffioli, mi che facevo da assistente. Scenografia l'ha fatta Simon Benetton. E in quel concorso ha vinto il basso come Bartolo Dara, che poi ha fatto una carriera meravigliosa, strepitosa, la Scala, dischi, eccetera. Ecco, dal 70 è partito il concorso. Dal 72, il presidente del concorso, che era Antonio Mazzaroli, il senatore, mi ha chiesto, Paolo, perché non mi viene a dare una mano come vice segretario, perché segretario era il dottor Malaguti. E allora ho cominciato a frequentare lì. Da 71 così mi hanno dato l'incarico di direttore di scena del comunale durante le opere. Sì. Direttore artistico era Armando Gatto. Il maestro, maestro Gatto. Grande. Allora il mio incarico da parte di Mazzaroli era di stare attento alla Toti del Monte, la quale aveva una certa età e che quando che aveva bisogno bisognava accompagnarla, perché le scale sono traditrici molto al comunale. Rapide, e abbastanza. Quindi mi diceva Paolin, era mi alzavo, la accompagnavo e aspettavo sul corridoio là e dopo la riportavo al suo posto. Ma a quel tempo devi pensare che il concorso di canto, seduti come gerarchi, sì, sì, vero? C'erano la Magda Olivero, la Iris Adami Corradetti, la Giulietta Simeonato, la Toti del Monte, Ferruccio Tagliavini, avanti una roba, caso, un parterre del Roy de Rennes, insomma, una roba incredibile. Di Dio. Bella voce Ferruccio Tagliavini. Sì. Altro che, sì. E quindi ecco che da lì Gatto dal 73 diventa direttore artistico dell'Arena e mi chiama in Arena e divento prima direttore di scena e poi regista stabile in Arena. Dal 76 Treviso mi offre l'opportunità di fare la prima mia regia d'opera, che erano I Quattro Rustichi, per il centenario della morte di Volferrari. E allora la cosa nasceva a Padova e poi si portava a Rovigo, Treviso. E io ho cominciato con questa regia a fare l'opera lirica. Ho chiesto di poter utilizzare non un scenografo solito, ma di prendere un pittore. E ho chiesto a Pino Gambino se mi faceva le scene e da, i costumi. Da Preganziol, sì, siciliano. Le scene e i costumi, sì, della dei Quattro Rustichi. Papà di Francesca. Un grande successo questa cosa, devo dire. Tanto che poi nell'81, quando mi danno ancora da fare un'altra opera di Volferrari, Il Campiello, e mi ricordo che a Padova, alla tavola rotonda di presentazione, di discussione, c'era Roman Vlad, c'era Mazzaroli, sì, c'era Raffaello, il barone de Banfield, compositore e direttore artistico di Trieste, c'era Mario Ghisalberti, che era per I Rustichi, che era il librettista del Campiello, Campiello che, sì, vede la luce nel 31, esatto, e la Iris Adami Corradetti, che era direttrice artistica di Padova, ma che è stata la prima Lucietta del Campiello alla Scala. Quindi, beh, insomma, poi c'era Nicola Rossi Lemeni, sì, che aveva fatto molte volte Lunardo nei Rustichi, esatto, e poi chi c'era ancora, insomma, erano io un parterre incredibile, ma un parterre che non finiva più, straordinario, che personaggi, tesoro, tutta no, gente, no, che mi ricordo, io ho conosciuto tutta questa gente, la Maria Caniglia, Carlo Tagliabue, amico fino alla morte sono stato di Gino Becchi, quindi sì, sì, dicono personaggi di assoluta, sì, rilevanza, sì, nel panorama, Gino Becchi, diciamo, che bel baritono, e dopo forte, che ho fatto questi Rustichi, dopo i mega, perché ha avuto un grande successo, ha preso, l'abbrivio e quando andare. Ho fatto Il Campiello ho voluto un altro pittore e ho, chiesto a Virgilio Guidi, 91enne, che non aveva mai fatto scena in vita sua, mi ha dipinto due magnifici olli, va bene, e con quello ho fatto motivazione di questo, perché non scenografo e pittore, perché secondo me il Gambino aveva questa mania di dipingere Venezia con un colore molto spagnolo, molto particolare, ecco, diciamo così, sì, bello solare, no? Ecco, e Guidi, perché vivendo a Venezia e dipingendo sempre a Punta della Salute, eccetera, questo, beh, insomma, esatto, attraverso suo genero, che era il direttore dell'Accademia di Belle Arti, Toniato, e attraverso lui sono arrivato al suo suocero e abbiamo lavorato 8 mesi. 8 mesi? Sì, perché 91 anni. Era pigro. Che... ecco. E beh, ma 91 anni. Sì, era pigro, ma era pigro. Però, insomma, è stata un risultato stupenda, che poi abbiamo portato in giro Trieste, eccetera, insomma. Che bella esperienza, questa mamma mia. È la nostra vita. Ma è artistica. Una cosa veramente straordinaria, perché così queste rappresentazioni, eccetera, poi è una dimensione onirica fuori del mondo, mi pare. È una cosa stupenda. Tu devi pensare che nella mia vita, fino a questo momento, delle 25, se non ricordo di preciso, opere di Giuseppe Verdi, che il prossimo anno ricorre il bicentenario della nascita sua e anche di Wagner, va bene? Delle opere di Verdi me ne mancano 5 per aver fatto la regia di tutte, ma mi manca l'Alzira, sì, il giorno di regno, Finto Stanislao, opere di Verdi, opere che non si fanno quasi mai, le altre le ho fatte tutte. Bene, dopo io le chiederò appunto quando basta cominciate... che non mi domanda schegge, mi domanda più che voglio. No, la sua carriera all'estero, perché deve essere stata anche quella affascinante. Dopo la prossima canzone, naturalmente. Benissimo, la prossima canzone è cantata da Nicola Di Bari ed è intitolata Sai che bevo, sai che fumo. Vizioso. Se tu cerchi un uomo bello non guardare me, perché non ho questa virtù. Se lo cerchi ricco affascinante non sono io, non ho brillato neanche un giorno in vita mia. Non aprire mai le braccia a un tipo come me, e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti adesso, sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore. Sai che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amore. Verrà forse il giorno che qualcuno scriverà parole belle anche per me. Qualche donna parlerà di me come un eroe, si mischieranno i baci, i fiori e le bugie. Tu non piangere, non preoccuparti dove andrò, perché io in alto volerò. Ne ho imbrogliati tanti, vuoi che non imbrogli lui, che perfettissima bontà che il paradiso mi darà. Sa che bevo, sa che fumo, sa che gioco anche con l'amor. Sa che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amor. C'è una nuvola che vola bassa, così bassa, che mi avvolge dentro sé. Trascina su per la montagna, sempre su, ho i piedi stanchi ma ora non li sento più. Io non voglio più voltarmi indietro, che mi importa, mi vergognerei di me. Ma qualcosa che mi lega a questa terra c'è, è la tua voce che mi chiama innamorata più che mai. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amor. Sai che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amor. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco e non me ne pento, anzi ricomincerei. Ho imbrogliato nel tuo mondo tutto, sempre mentito, e nessuno l'ha mai saputo, forse l'unica sei stata tu. Hai capito che ho lottato come gli altri la vita, e alla fine forse ho pagato qualche lacrima. Eccoci di nuovo in studio. Ecco, io volevo sapere da lei, signor Paolo, come è cominciata la sua carriera di regista di opere all'estero? No, ma è stata tutta una conseguenza. Cioè, dopo che io ho fatto questi rustichi nel 76 e che mi hanno cominciato a chiamare, la prima cosa che ho fatto subito dopo, sono andato a Udine, al Palarizzi, e ho fatto Boheme e Trovatore. Tutte con artisti stupendi, eh. Dopo mi hanno chiamato di nuovo, insomma a un certo punto ho dovuto anche lasciare la scuola che insegnavo, ero di ruolo e ho dovuto lasciarla perché non ce la facevo più, e ho cominciato ad andare a Lisbona, dove a Lisbona sono rimasto praticamente dal 78 così, 79, fino all'89. Però dieci anni, quasi dieci anni, che bella esperienza. E lì ho firmato più di, credo, 30 dico titoli d'opera. E le cose più pregnanti di Lisbona sono state l'Aida, che è stata la prima opera trasmessa in Portogallo dalla televisione in diretta. prima opera, che non avevano mai trasmesso loro opere in diretta dal loro teatro, neanche. Quindi la prima volta, questa è stata la prima esperienza. Poi mi hanno subito affidato un'opera portoghese che meno capivo neanche una parola, sì. Ma attraverso un'amica che era la maestra delle luci, che era una dell'Angola, con il suo figliolo che era della TAP, la linea aerea portoghese, sì. Di notte, perché partivo il giorno dopo, subito dopo la prima, mi sono scritto a matita sulla partitura che mi avevano dato, e per capire quello che era il portoghese, perché non lo sapevo, cioè, il portoghese non è mica una lingua semplice, non è lo spagnolo. Immagino. Esatto, è un po' più complicato. Allora, ho fatto questa trilogia das Barcas del Gil Vicente, il poeta portoghese, amico di Erasmo da Rotterdam, eccetera. Sì. E su questi testi aveva scritto la musica un grande compositore per me portoghese, che era Joly de Braga Santos. E ho fatto questa regia, che è stata una cosa fulminante, perché hanno detto la critica meravigliosa, dicendo: questa è una edizione da portare le scolaresche a vedere questa produzione. Dai. E da lì si è aperta la porta del Portogallo. Quindi sono diventato direttore tecnico del Teatro San Carlos, e ho fatto, ogni anno facevo 2-3 regie così, e ho fatto la premia mondiale moderna del Mosè in Egitto di Rossini, sì. Perché il Mosè in Egitto, siccome voi sapete che si dice in teatro che il viò è a Porta Pegue, no? Assolutamente, Quaresima. È perché nella Quaresima i teatri non potevano rappresentare soltanto cose di chiesa, e allora Rossini aveva scritto, per far lavorare i cantanti, anche l'orchestra, il coro, aveva scritto questa cantata chiamata il Mosè in Egitto. Argomento, diciamo, siamo nel 818. Poi dopo ci rimette le mani nell'anno successivo, nel 19, e inserisce la preghiera che cantano: dal tuo stellato soglio, Signor, ti volgi a noi. E siamo nel 1819. Da allora quest'opera è stata... Poi lui ha scritto il Moisés per la Francia, per Parigi, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Però diverso da quello. Claudio Simone, con studi di un paio d'anni di ricerche, ha tirato fuori praticamente la partitura di questo Mosè in Egitto. E la prima è stata fatta, moderna, è stata fatta a Lisbona, al Teatro San Carlo. Io facevo la regia, Claudio dirigeva. È lo stesso dei solisti veneti, naturalmente. Sì, è una Claudio Simone. Lui dirigeva con il coro e l'orchestra della Fondazione Gulbenkian. Gulbenkian, Armenio. Sì, lui era. Ecco, poi così è cominciata l'avventura dell'estero, ma dopo da Lisbona ha cominciato a fare il Brasile, dal Brasile l'America. Sempre in Brasile, una certa, diciamo, sempre brasiliano e portoghese. Brasile io ho inaugurato il Teatro Municipal di San Paolo del Brasile, che era chiuso da 13 anni per lavori, e l'ho inaugurato facendo scene e regia della Turandot di Puccini. Ecco. E da lì, dopo il Brasile, poi gli Stati Uniti, l'America, la Svizzera, insomma, ha girato abbastanza, insomma. Abbastanza, hanno rotto i gambe e sono di girare in aereo. Ha conosciuto Giuseppe Di Stefano? Ma abbiamo contato l'altra volta di Pippo Di Stefano, dell'Andrea Senia di Treviso? Non mi ricordo. Nel 63 viene Giuseppe Di Stefano a Treviso per la prima volta e viene a cantare l'Andrea Senia. Io faccio Fiorinelli, cavaliere italiano e musico, quello che suona il cembaletto là che c'è in scena al primo atto. Io mi ero preparato, truccato, parrucca, eccetera, eccetera. Ero un po' più alto io di Pippo. Allora entra Fléville, entra Pippo Di Stefano e ultimo entro io, perché mi pare giusto, no? Loro entrano, passano, come entro io sulla porta, mi fermo un attimo così. E viene giù un applauso di accoglienza. Di Stefano mi avvicina, siccome non canta subito, perché passa un po' di tempo prima che lui attacchi d'improvviso, e mi dice: dopo domani entro dopo di te. Commendatore, lei può entrare quando vuole, per me va bene. Allora, dopo due giorni entra Fléville, entra che è un baritono che deve dire che io vi presenti Flando Fiorinelli, cavaliere italiano e musico, Andrea Chenier, un che fa versi e che promette molto. Entra lui, entro io e prendo l'applauso. Dietro di me c'era Di Stefano. Allora mi guarda e fa: non ci sono più recite. Commendatore, non è colpa mia però. Questo Di Stefano. E quest'anno, l'anno scorso, con l'opera in piazza a Oderzo, a ottobre, ho presentato 13 tenori per Pippo Di Stefano, con la moglie, la vedova di Pippo, e 13 tenori che hanno cantato 13 arie accompagnati dall'orchestra Filarmonia. E io ho presentato questa serata in omaggio a Pippo Di Sterno. Successo che è clamoroso. Tutti grandissimo tenori. E come mai 13? No, erano... No, perché io avevo fatto a Villorba 10 tenori per Mario del Monaco. Ah. Allora gli ho detto, non potremmo far 10 tenori. Certo, no, certo, e gli ho detto che ne fermo 3 designati, ne 14, quello che vuoi. Dico, Pippo li merita tutti, anche lui. Straordinario. Ecco, era un grande tenore. Una domanda. Il clima... che si riscontra all'estero, che è stato riscontrato nella fattispecie proprio da regista all'estero, nei confronti dell'opera, eccetera, rispetto a quello che abbiamo nel nostro territorio. Ma bisogna distinguere pubblico e pubblico. Per esempio, il pubblico tedesco è un pubblico che intanto molto raffinato, molto attento e non molto esigente, mani, presumo. Aspettano che finisca il maestro, insomma. È un pubblico molto più civile, diciamo. Sono ordinati, il nostro è molto più sanguigno. Sì, quando sentono un acuto fatto bene, il nostro scoppia, il pubblico. Sì, là invece loro sono gelati. Però dopo continuano a battere le mani per 15-20 minuti, se occorre alla fine. Ecco. Sì, esatto. E i tedeschi invece hanno un'altra cosa, che sono stati abituati a delle mise en scène, delle regie, tutte quante. Infatti Wagner si vede sempre chitarroni lunghi fin per terra, anche plastica nera, è vero. La Norma la mette solo un camion, vestita da partigiana, e l'ambiente, allora questa è solo il camion, accanto casta diva che in Argenti non si capisce cosa che ha voglia, perché va de moda mettere il nazismo in questo, ogni momento, sì, no. Cioè questo stravolgere. Io ho visto un ballo in maschera a Francoforte dove nell'atto del ballo era tutti water, tutti i coristi col tutù da ballerine seduti nel questo era il ballo in maschera. Beh, allora si capisce perché dopo si stufa e gli dà fuoco al teatro. Succede dopo, certo. E questo è un pubblico già, mentre il portoghese è un pubblico invece molto latino. Quindi sì, la Spagna, molto... la Spagna rispondono molto. Ecco, gli svizzeri dipende. Io ho fatto molto svizzera tedesca, però quando facevo la Svizzera, ero direttore artistico dell'Opera Ascona in Svizzera, cioè nella Svizzera italiana, è vero. Là sono molto più italiani, cioè come gusto, diciamo come immediatezza nel rispondere con un applauso. Di là sono più la Svizzera tedesca, St. Gallen, invece sono molto più tedeschi. Certo, diciamo. Certo. Ecco, sì, il tedesco è proprio precisi, è duro, eccetera. Di per sé, sono preciso, sì, ordinato. Ma i francesi, per esempio, ho fatto molte regie a Toulouse, teatro di Capitole, e lì con il mio amico, il direttore d'orchestra Michel Plasson, abbiamo fatto Lucia, abbiamo fatto Barbiere, abbiamo fatto Sonnambula, ha fatto tantissime cose. L'Otello di Verdi, l'ho portato a Bordeaux, la Cenerentola con la Valentini Terrani, che non c'è più, una carissima Lucia, amica. Brava, brava. Ma avevo una compagnia di Cenerentola a Bordeaux che era la fine del mondo, perché avevo Paolo Montarsolo, avevo la Lucia Valentini Terrani, e poi c'era il baritono marchigiano, aiutatemi voi, raffinato, bravo, che faceva Dandini, che era raffreddato, raffreddato, vecchio già. Dico, ma Sesto Bruscantini. Dico, ma Sesto, ma in quelle condizioni come fai a cantare? Non ti preoccupare, il cachet non lo lascio. E allora cantava tutto quanto sul naso, hai capito? E faceva il Dandini della Cenerentola. Montarsolo, che rideva con Fompazzo, perché poi c'è un duetto bellissimo tra loro due, e diceva, ma è la voce, non ti preoccupare, fra poco abbiamo finito. Questi erano, insomma, grandi artisti, grandi personaggi. Grandi. Diciamo che ci possiamo così interrompere un attimo per un'altra canzone. Benissimo, allora ci ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è una canzone cantata da Ray Charles. Antonio? Ray Charles, sì. I can't stop loving you. Mamma, non posso smettere di amarti. Sì. Ecco. Ebbene, qui in Italia la canta John Foster. Non finirò d'amarti, sì. Esattamente. Ce l'ascoltiamo. Beh, non c'è paragone. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't. say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew, though long ago, though long ago, still dreams of yesterday. E rientriamo in studio per l'ultima tranche, che credo sia affascinante e dir poco, una tranche operistica che coinvolge l'estremo oriente. Benissimo. Sentiamo Paolo. Ecco. Ma no, niente dell'estremo oriente. L'estremo oriente è sì fatto che a Lisbona avevo conosciuto un caro amico, che è diventato un caro amico ancora oggi, un personaggio che è diventato il ministro della cultura e dello sport e della comunicazione nel governo portoghese che governava allora la penisoletta di Macau. Quindi possedimento portoghese allora. Omun, sì. In cinese. Omun è la luna. Omun la luna. È la luna. Ecco, e allora mi ha chiamato perché dice: ah, vieni qua a darmi una mano per il festival. Facevano il Festival Internazionale di Musica del Sud-Est Asiatico. E dice: perché come va? Non sono tanto convinto. Quella, insomma, sono andato con un mio amico poi portoghese, che eravamo amici da 20 anni, che era direttore artistico anche del San Carlo, è stato, e abbiamo preso in mano questo festival, e da lì, dal 92, ho cominciato a fare ogni anno nel festival, ho inserito un'opera lirica e ho individuato un'area molto bella dove una cosa di sport, dove ho ricostruito praticamente una piccola arena, cioè un palcoscenico, un boccascena di circa 23-24 metri, l'arena fa 35 di palcoscenico, con le gradinate del pubblico che ho coperto e le ho usate per mettere delle scenografie, eccetera. La prima ho fatto il barbiere di Siviglia su a una fortezza che domina Macao, e quindi è diventata praticamente Siviglia. E l'anno dopo sono andato in questa cosa, e da lì ogni anno facevamo un'opera, ecco, facevo un'opera portando artisti internazionali. Poi dopo il governatore di Macao mi ha nominato suo consulente per la scelta del nuovo centro culturale che dovevano costruire. Hai capito. E quindi io ho scartato alcuni, io non sapevo chi erano gli autori, gli architetti, però guardando i disegni eccetera, l'unico che ritengo valido per poter fare teatro, perché qui si parte dalla sala, invece bisogna partire dal palcoscenico, perché se non c'è il palcoscenico ben fatto, che funziona bene tecnicamente, non ha senso di avere un pubblico, voglio dire, no? Ecco, quindi ha vinto Fatalità, un gruppo di portoghesi, ma io sono contento perché no, ho scelto, ed è lì, esiste lì, e questo centro culturale che raccoglieva due teatri, praticamente uno di 1400 posti. Quindi non una cosetta così, no, da ma scherzi, gigantesco. E uno da concerto, da pianoforte, da quartetto, così, di circa 500 posti. Poi c'erano due musei enormi, poi c'erano i ristoranti, poi c'era sottoacqua, che si vede l'acqua sopra il rio da Sperolas, sotto acqua c'erano i non garage, si badava a spede, si entrava in garage, tu prendevi la scala mobile e arrivavi su un grande patio, corridoio centrale, da una parte andavi nella sala d'opera, diciamo, e dall'altra parte andavi nella sala da concerto, studiato, fatto ma bene, cosa, hai capito? Straordinario. Tanto che quando l'ho inaugurato con il Delfiligende Holland, l'olandese volante di Wagner, ho chiamato Weichel, baritono che ha sempre fatto questo ruolo a Bayreuth, a Bayreuth. Ho chiamato Newman, il tenore, alto tenore di Bayreuth, ho chiamato la Conwell, il soprano, quindi in tedesco naturalmente, certo. E questo abbiamo inaugurato questo centro culturale in marzo, e nel mese di novembre che chiudeva, del 99 che chiudeva la parentesi portoghese dopo 431 esatto. anni, è vero, ho fatto un'edizione memorabile di Aida, venivano da Hong Kong, da tutte, a vedere queste ho aperto, ecco vedi l'intelligenza di fare un palcoscenico che funziona, aprendo tutto il palcoscenico si apriva la porta di fondo, che era una porta scorrevole, il trionfo partiva da 45 metri di fondo, e arrivava il trionfo con la scenografia studiata apposta, tutta dipinta, tutto. Non ho voluto cose costruite, niente. Hai capito? È stata stessa produzione, poi l'ho portata anche a Tel Aviv. E lì al centro culturale di Macao, se andate, se ne laga cavare i cinesi, ma non credo, non perché penso. C'era anche il loro presidente, c'era una targa, c'è fuori, ho scritto il presidente della Repubblica Popolare di Cina, Tizio, il presidente del Portogallo, Caio, gli architetti Sempronio e il consulente per il governo di Macao, Paolo Treviso. Ah, e la targa è appena ora. Grande soddisfazione. Ho fatto delle robe a Macao. Ma prima di finire con Macao, due anni prima, del 99... perché i cinesi ti studiano molto, ma siccome avevo sempre l'orchestra, che era l'orchestra di Pechino, il coro all'inizio era di Shanghai, poi quello di Pechino, eccetera, e mi hanno filmato durante le prove, studiato eccetera. Per bene, eccetera. Sì, e a un certo momento mi hanno chiesto se volevo fare il direttore artistico dell'Opera Centrale di Pechino. Di Pechino. E lì, di Pechino. Che soddisfazione! Sono stato fino al 2002, come dire, avevo lasciato Macao perché dopo i portoghesi se ne sono andati, sì. E io sono passato. È diventato integralmente, sì. Diciamo, cinese. Vabbè, ma questo... Pechino, allora abbiamo pochi minuti. Ma vogliamo, ma che soddisfazioni, mamma mia, queste sono cose ma che... perché non mi sono affascinati. Divertito perché loro hanno delle belle voci, però cantano tutti quanti come fossero davanti a Mao, ecco. Allora abituarli a cantare l'opera lirica italiana, perché io ero per l'opera lirica italiana, certo, certo. Qui al cinese chi sarà già? La prima volta che mi ha portato Goccia Passono, perché un mio Mao cusino che avevo mai sentito. Ecco. E in più, durante questi qua che sua sul palco, tutti incoloriti, e niente, un Mao! tutti che fate, tutti i sesti, no? I putei che corre, chi che porta a birra il papà, tutti che discorre dei fatti sui, e quindi solo chi fa tutti questi sesti può arredire, no, l'opera italiana. E quindi ho preso in mano e ho fatto con loro Rigoletto, ho fatto delle opere italiane. Comunque l'hanno gradita molto. Preparandoli molto. E dopo, quando ho finito il mio mandato, ho detto basta, perché anche perché avevo una certa età, bisogna fermarsi. Diventava pesante. Sì, pesante, basta. Ho già corso tutta la mia vita. Il però... pubblico cinese? Oh, meraviglioso. Era entusiasta. Gente di grande cultura. Poi dopo è andato Pavarotti, e anche con il tenore Vincenzo Bello. Hanno fatto la Boema dopo, e beh, comunque dopo è continuata, abbiamo, l'avventura italiana. È stato un apripista, Paolo. Sempre, sì, apripista. Anche perché a Macao io ho fatto la prima Turandot della Cina, opera proibita, come la città proibita di come Pechino, perché è un'opera che loro non vogliono, non amano, perché c'è questa principessa perfida, certo, che poi si scioglie nell'amore di Calaf. Sì. E quindi ho fatto la prima Turandot cinese, che ha avuto un grandissimo curiosità e successo. Attenzione, curiosità, perché tanto sì, i cinesi sì, tutto, sì, sono al di è una cosa assolutamente nuova, gli appassionati sì. Sapeva che era proibita, certo. Ecco, ha avuto un grande successo, da una bella edizione con una bella compagnia. Poi ho fatto Tosca con la Tomova Sintov, ho fatto Falstaff, ho fatto tante di quelle cose anche a Macao, per l'amor di Dio. Un ambiente straordinario anche dal punto di vista, come di dire, grande, dell'accoglienza, sì, e di grande rispetto. Come i giapponesi. Ecco, è un altro popolo straordinario. Sì, anche in Giappone ho fatto Bohème due volte, sono andato a fare la Bohème, perché la mia Bohème, il mio debutto in Giappone era 84, 83, 84, la trasmettono ancora. No, sono sbalordito. Pensa che cosa, la trasmettono ancora. E lì ho conosciuto l'attuale imperatore, al quale siamo stati chiamati su durante questa Bohème, e dopo il secondo atto ha voluto salutarci, sì. E il giapponese che ci accompagnava mi ha raccomandato: mi raccomando, non si deve toccare, non si deve dare la mano. Dopo, parlando così, questo qua traduceva, se mettiamo ridere su una certa cosa, e lui fa un movimento e io allungo la mano. Sono sceso dalle scale, tutti i coristi, Yuga Sparso e Avosa, giapponese, tutti che venivano a darmi a man, perché io avevo toccato. E lui quell'anno muore, poi l'anno Hirohito, e quando sono tornato dopo un anno in Giappone mi è arrivato l'invito in albergo per andare all'incoronazione. Ed ero seduto in fianco a Spadolini, che era ministro, sì. E davanti a me avevo Carlo e Diana d'Inghilterra su questa cosa, come si dice? Una cosa affascinante. Ma lui si è ricordato di questa mano, va bene, e quando ha visto che ero a Tokyo per fare il Macbeth, mi ha mandato l'invito. Dal Veneto al mondo. Ecco. Tu hai capito che è una cosa da Marco Polo a Paolo Trevisi. Mamma mia, ma veramente, guarda, è una cosa straordinaria. No, è stata una bella esperienza. Un'avventura umana straordinaria. L'Oriente, io ho sempre avuto una grande passione per l'Oriente. Grande, grande. E devo dire sì al Giappone prima, e poi dopo, quando mi è capitata la Cina, sono andato sempre molto volentieri. Un'esperienza molto straordinaria. E anche insegnare, perché loro vogliono imparare. Ah. E tu spieghi, insegni. Questo è sinonimo di intelligenza, perché uno che vuole imparare ma vuol assolutamente dire che certo, niente, sì, l'intelligenza è una cosa straordinaria, appunto. Il tempo purtroppo è un'altra cosa straordinaria. Quello che mi dispiace è che non sono mai andato, che mi avevano invitato per fare una ida in Corea, e poi dopo un disguido non sono più andato, e mi manca la Corea, dove hanno magnifici cantanti lirici. Non poniamo limiti alla provvidenza, appunto, non poniamo mai però limiti. Poniamo limiti al invece tempo. Alla nostra sì, mi saluto tutti, mi chiedo scusa a chi che mi ha ascoltato fin adesso, sigo te di ai. No, assolutamente, questi sono interventi elettrizzanti che ti stordiscono per la mole di aneddoti e cose di questo tipo. Bene, allora a noi non resta altro che ringraziare il nostro Paolo Trevisi, sentitamente, un'occasione straordinaria. Chissà, non poniamo limiti alla provvidenza, vero Antonio? Assolutamente. Morire, infatti, sì. questa è la prima cosa, poi... Ringraziamo sentitamente. Anche te ringraziamo, ringraziamo Antonio. E ringraziamo naturalmente anche... La nostra Lia, che è qui che ci ascolta. La Lia De Martin. Esatto. Lia non vuol dire niente. No, non vuol parlare. Va bene. Bene, allora il Clan Verdurin, Fangarima con De Martin. Allora, assieme al nostro Paolo Trevisi, a te Antonio, e al nostro regista Eddie Daici, che è sempre veramente stupendo, diamo a tutti una buona e serena notte. Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.